il signor Colodi ha scritto il suo nome. Mario Nicolodi, sì. Molte grazie. Una spada di Dalmore è semplicemente inconveniente. Non occorre mandarne. Ma si possono preparare interlocutori veri, preparati, informati, per distorre coloro che la maneggiano dal percorrere le vie della violenza. Lo stesso Sant'Ignazio, di fronte all'islamismo, aveva trasposto il disciplinarismo militare in una utile, feconda risorsa spirituale. La cultura islamica si era rivestita delle pene profonde della classicità, moltiplicando i suoi addetti con l'antico. Ora, il mondo antico classico era stato già sottoposto nell'umanesimo e rinascimento per un suo fondato riproporsi, sollecitando anche la presenza di Costantinopoli, ad un vaglio critico rigoroso, perché non doveva fare altrettanto il mondo religioso con i suoi testi classici. Il mondo rinascimentale sottopone il dato empirico ad una induzione assolente di tipo astratto e dottrinale che giungerà poi fino alla formula estraniana che non annulla certo il dato empirico ma lo celebra nelle sue potenzialità relazionali. Perché il mondo religioso non avrebbe dovuto analogamente teologizzare la rivelazione, offrendola nella sua sostanziale e profonda incontraddittorietà, ben lungi dalle contraddizioni in cui redisse la lettura soggettiva? Non c'è quindi solo il nord d'Europa attraendo, ma tutto per intero l'est, ad un'azione personale quale quella intramontabile, veramente intramontabile, per chi la conosce, dire mondo Lullo, occorreva sostituire un'opera comunitaria, il Concilio di Trento. Aggiungerei, tanta acqua è passata sotto i ponti della storiografia europea e mondiale e quindi necessiterebbe in tema di Concilio di Trento un pertinente inquadramento storico di storia sia civile che ecclesiastica e una chiara distinzione tra Concilio e la sua spiritualità, perché è stata questa la vera protagonista della storia intesa come storia della civiltà. È un quadro amplificato e sviluppato di quel rinnovamento pre-tridentino che è stata la vera piattaforma di lancio di tutto ieri. Grazie. Grazie. Signor Valchiero. Valchiero, Cristiano Münster. Io ho due piccole premesse per poi fare una domanda, vorrei che fosse ben collocata per queste premesse. La prima è che non ho la competenza di parlare da storico su questi problemi, per cui mi esprimo in termini di teologia sistematica, sono un teologo moralista. La seconda premessa è che la domanda che pongo a lei, professor Prosperi, materialmente si rivolge a lei, ma prende la sua ottica formale dalla prima relazione che abbiamo sentito questa mattina. Per centrare meglio la mia domanda, dirò che essa si riferisce a quella parte della sua relazione in cui lei affronta i problemi riguardanti i minori. La mia impressione è che nella sua lettura, peraltro suggestiva, per la quale sono molto grato, nella sua lettura, lei abbia preferito un'ottica di tipo storico-sociale, abbia letto cioè questo, l'intervento tridentino sul matrimonio, relativamente a un orizzonte di comprensione ampio che è quella della storia sociale del tempo. Stranamente, per niente ci sono state espressioni nella sua relazione riguardanti la dottrina tridentina della definizione del matrimonio come sacramento, dunque la sacramentalità del matrimonio, e questo avrebbe risposto, per così dire, a uno spostamento di ottica dalla storia sociale del tempo a controversie riguardanti le idee teologiche. Ora, mi pare che questa preferenza che lei fa, questa opzione che lei fa per una lettura storico-sociale e meno teologico-controversistica, in realtà rende suggestivo tutto il tema dell'analisi del Tridentino, però lo fa diventare, mi consente questa espressione, più importante di quello che nella storia della teologia e nella storia della Chiesa esso potrebbe e vorrebbe essere. Uno studio recente di un autore protestante sulla sacramentalità del matrimonio, uno studio recente anche molto analitico sul decreto Tamezzi, dice che il Tridentino ha chiaramente non voluto consegnarci una dottrina globale sul matrimonio, ma, così leggo, «Bezirut gegen die Infragestellung der Reformation di Lehre Absicht». Il Tridentino ha voluto non dare una dottrina totale globale, ma miratamente ha voluto mettere in salvo la dottrina tradizionale, e cioè che il matrimonio fosse uno dei sette sacramenti, contro la infravestellum, la problematizzazione dei riformatori. Mi pare che questo spostamento di ottica che lei, a me è parso di leggere nel suo intervento, lasci in oblio questa diffusa, questo diffuso orientamento del Concilio di Trento, che peraltro è quello che ha motivato poi la disputa a questo riguardo. Allora le espressioni, la preferenza, per così dire, di carattere formale della criteriologia che leggevo nella prima relazione questa mattina, cioè occorre conoscere bene le dottrine dell'avversario per poter dare una risposta, possa essere poi qui ripresa. Allora qui non sarebbe più una domanda, eventualmente si allargherebbe il dialogo su che cosa ha voluto realmente, chiaramente, dire Trento a questo riguardo. Non so se sono state chiare nella mia domanda e se occorre fare una piccola versione in tedesco per quello che sì, se si riesce per dopo iniziare. Nella kurze Zusammenfassung auf Deutsch dessen, was ich Herrn Kollegen Prosperi vorgelegt habe, besteht darin, ich hatte den Eindruck bezüglich dessen, was gesagt worden ist zum Thema Eheverständnis in Trient, habe ich ihm die Frage gestellt, ob er nicht eine sozialgeschichtliche Optik bevorzugt hätte und weniger vom Ausgangspunkt her ausgegangen sei, was die theologische bzw. sakramentale Orientierung beim Konzil doch sehr präsent war. Hätte man nicht auch dessen, das, was bei den Reformatoren im Mittelpunkt stand, aufnehmen sollen, um das Verständnis dessen, was im Konzil gesagt worden ist, in einem besseren Licht zu stellen? Giuseppe Caprario, Istituto di Scienze Religiose di Trento. Un apprezzamento per entrambe le relazioni e anche per l'introduzione del Vescovo Miller. Una domanda al professor Prosperi, che da come ho sentito è esperto in storia dei sacramenti. In particolare vorrei sapere quando il segreto della confessione è diventato così radicale da essere un punto fermo nella pratica confessionale. Il segreto della confessione, che come sociologo interpreto in termini relazionali non come un contratto tra Dio e il confessore, come dire io do a te la possibilità di assolvere i miei nomi i peccati, tu ti impegni a non renderli pubblici, ma bensì come un rapporto, una relazione tra confessore e penitente. Io penitente dico a te i miei peccati, tu confessore ti impegni a non renderli pubblici. Tanto è vero che se il confessore ha l'assenso del penitente può rendere pubblico il peccato. Ecco, questo è un particolare aspetto che desidererei conoscere, in quanto ho sentito che lei ha scritto e ha studiato la storia della confessione in genere dei sacramenti. E adesso dalla confessione al sacramento desidererei passare alla confessione istituzione. Il professore Spagnolo questa mattina ci ha detto che a Trento inizia, come del resto aveva anche detto nei suoi interventi il professor Prodi in questi giorni, il periodo della confessionalizzazione. Le confessioni si strutturano istituzionalmente ed eventualmente si combattono, dialogano, però da un punto di vista di confessione ben delimitata e istituzionalmente ben chiara. Quello che stiamo vivendo adesso, e vengo allora all'impegno che il Landesbischof Müller ci ha detto di pensare al presente in prospettiva, al futuro, è proprio il processo inverso. Noi stiamo assistendo a una deistituzionalizzazione delle confessioni, o meglio a una deconfessionalizzazione dell'esperienza religiosa. E questo non vuol dire che l'esperienza religiosa manchi, ma si trasforma. Mi riferisco in particolare all'indagine condotta nell'80 e nel 90 dall'European Value Study Group, a cui ho avuto l'onore di partecipare. Dall'80 al 90 le confessioni religiose hanno perso diversi punti in percentuale di appartenenti. E i non appartenenti non sono non religiosi, perché sono credenti. C'è quel fenomeno che viene indicato del believing without belonging, il fenomeno opposto a quello che una volta è ancora presente di religiosità tradizionale, del belonging without believing. Ecco, c'è un'area molto vasta di non appartenenti a nessuna confessione che credono in Dio o comunque ad una realtà trascendente. Questo pone problemi nella definizione della confessione in sé, che deve ovviamente modificare i suoi confini, e problemi anche di rapporti tra le varie confessioni in maniera molto differente, non come istituzioni fisse, ma come realtà aperte. Ecco. Grazie. Grazie. So che i colleghi tedeschi hanno capito il mio italiano. Professor Ruggeri. Desideravo intervenire sia a proposito di quanto Prosperi ha detto sulla innovazione tridentina rispetto al matrimonio, che anche su quanto ha detto Autiero, su questa interpretazione particolarmente fissata, direi, davanti alla controparte protestante. E la mia impressione è che il problema è ancora, come giustamente ha sottolineato Prosperi, molto inesplorato, e che soltanto una considerazione di lungo periodo forse ci dice qualcosa, non tutto. E non sono d'accordo con l'interpretazione tanto di Autiero, nella sua parte limitativa, perché il Concilio di Trento ha innovato la prassi del popolo cristiano cattolico del matrimonio. Non dobbiamo dimenticare che quello che viene chiamato matrimonio clandestino nei secoli precedenti era valido, e che i papi l'hanno difeso, e che è una prassi, posso portare anche la referenza, e che in una prassi che il popolo cristiano, per esempio nel sud da noi, non ha ancora accettato. Allora non c'è soltanto la controparte protestante, c'è anche la controparte cattolica nella presa di posizione del tridentino. Da questo punto di vista, una considerazione di breve periodo è insufficiente per capire il problema, perché il problema sorge quando la prassi sacramentale antica, la benedizione, comunque la si voglia chiamare, si unisce poi alla regolamentazione del diritto romano che viene introdotto nella Chiesa. Ed è in questa, modificazione, in questi rapporti molto complessi, no? Fino ai nostri giorni forse, che bisogna collocare la storia del sacramento del matrimonio e ancora le attuali difficoltà che si ripetono in forma non secolarizzata, in forma secolarizzata, per quanto riguarda di fatto la pratica delle nozze del popolo cristiano e questa disciplina che il tridentino introduce. Questo è molto importante anche perché, per esempio, studiando personalmente i sinodi siciliani post-tridentini, c'è una cosa molto interessante che emerge a tal proposito. Per un verso, i sinodi, chiaramente con le ripetute condanne, prendono atto che la disciplina tridentina è stata viene ad essere rifiutata dal popolo cristiano. Per altro verso, hanno una certa perplessità a considerare sotto la fattispecie del peccato morale la prassi del popolo cristiano. E questo è molto interessante. Per altro verso, insorgono dei contrasti molto particolari. I parroci, per esempio, sono più dalla parte della gente che dalla parte del vescovo. Però il motivo tridentino della sacramentalità del matrimonio, ormai identificato di fatto con la manifestazione pubblica del consenso, no? Perché è questo il punto poi chiave, crea una certa difficoltà anche al clero. Perché invece alla sacramentalità il clero ci tiene. E allora questo cosa mi fa dire? Che è veramente un campo ancora profondamente inesplorato, che può essere letto bene soltanto nel lungo periodo, alla intersezione di fattori che sono di diversa origine, che sono di ordine giuridico, l'assunzione del diritto romano all'interno della pratica sacramentale, in questo caso chiaro come non mai, no? E anche all'interno delle pratiche sociali, per cui è l'aspetto dogmatico sacramentale, è l'aspetto giuridico, è l'aspetto della storia sociale messa in luce da Prosperi, dovrebbero essere tutte integrate forse in una misura molto più equilibrata fra di noi. Sì, professor. Sì, prego. Al signor Prosperi. Il y a des choses qui dites par le concile au sujet des sacrements et qui ne sont pas vraiment passées dans le peuple chrétien. Et j'en ajouterai quelques exemples. Sono cose che ha dite il Concilio di Trento e che non sono passate nel popolo cristiano. Per esempio, la confirmation, le peuple a retenu seulement que c'était un sacrement donné par l'évêque. Et dans le peuple et le clergé. Et dans la pratique, ce sacrement était donné, n'était pas donné selon et à n'importe quel âge, selon les hasards du passage de l'évêque. La confirmation, malgré les déclarations du Concile de Trente, n'est pas devenu un sacrement vivant du catholicisme moderne. Deuxième point, l'extrême-onction. Le Concile a pu la redéfinir comme un sacrement. Dans la pratique, l'extrême-onction passait inaperçue par rapport à la communion du viatique. La communion en viatique était entourée de tout un cérémonial, elle était signalée, elle était socialement vécue, l'extrême onction, on n'en parle jamais. Inversement, le peuple chrétien a trop bien compris ce que le Concile avait dit du mariage. Le Concile avait dit que le mariage devait se passer en présence du curé, et il a proposé la formule bien douteuse « Ego coniungo vos »« Ego vos coniungo » Et le peuple a retenu que c'était le curé qui mariait. Et puis maintenant, une question. Adesso una questione sur la résistance à la confession. Est-ce que, c'est mon sentiment, mais est-ce que vous pensez aussi que cette résistance a été plus forte chez les hommes que chez les femmes? À partir de quand, en tout cas, parce que au XVIIIe siècle, c'est très dès le XVIIIe siècle, dès le XVIIIe siècle, c'est très évident, à partir de quand la résistance à la confession est-elle plus forte chez les hommes que chez les femmes? Pourquoi? Et n'est-ce pas finalement une des raisons importantes, peut-être même majeures, de l'abandon de la pratique religieuse par les hommes à la différence des femmes? Merci beaucoup. Altre domande? Forse posso domandare una piccola cosa per sopra che ci ha Ioras. Lei ha ricordato che l'Inquisizione fu prima in Spagna e qui in Italia. D'altra parte ha mostrato che molti teologi spagnoli hanno letto opere dei protestanti e hanno cercato di leggere Benedetto come cattolico e poi fu la Inquisizione più tarda che ha interrotto questa tradizione. Mi sembra che è anche una catastrofe per la tradizione in Spagna, che questo non fu possibile di avere anche nel periodo del Concilio. Lei ha detto, se ho capito bene, che la confessione non fu nel protestantesimo. Questa è una cosa molto complicata. La confessione dei singoli fu abolita solamente durante la Aufklärung, Illuminismo, e furono i teologi che volevano la confessione dei singoli, ma i cittadini dicevano lo stesso che lei ha dimostrato. I cittadini non volevano dire le loro peccati. I teologi dicevano che è molto utile e forse la confessione è anche un sacramento, non solamente il battesimo e l'eucaristia, ma anche forse è un sacramento, ma fu un problema sociale nel protestantismo, non teologico. Poi al matrimonio, qui la situazione è diversa. Lutero diceva che il matrimonio è una cosa secolare, una cosa sociale, weltlich Ding, lui diceva. Così lo Stato doveva regolare il matrimonio e non i teologi dovevano dire se un matrimonio è giusto o no. Lei ha raccontato di questa materiale di questi tanti processi. Ma nel protestantismo questo fu espulso dalla Chiesa nello Stato. Professore, perché volevo dire che mi ha interessato moltissimo il problema del linguaggio e nella polemica e nella rottura tra protestanti e cattolici. Mi ricorda quel bellissimo libro di Vincenzo Fugnier sulla Rechtfertigung tra il 1521-1530, in cui poi rileva proprio che il problema del linguaggio è stato veramente una delle cause fondamentali dell'incomprensione. Volevo anche rilevare come Eck nel 1530 sottolineava come ad agosto nelle commissioni protestanti, luterane e cattoliche affermava che sui 19, primi 19 articoli c'è un'intesa, ma parliamo lingue diverse. Questo è estremamente interessante, quindi la soluzione non avvenne perché forse intervengono altri problemi, soprattutto il problema degli abusi, eccetera. La domanda, mi chiedo e chiedo a lei se il problema del linguaggio, della diversità del linguaggio, non è veramente una chiave interpretativa di grande spessore proprio per comprendere la rottura tra protestanti e cattolici, soprattutto negli anni dal 20 al 30, almeno fino al 40, della vita di Tisbona. Invece, professor Prosperi, volevo chiedere una cosa estremamente interessante e comprendere, ci ha fatto comprendere come il problema anche del matrimonio e di altre cose ha capovolto tutto un sistema di vita. Questo sistema di vita, la Chiesa ha tentato di indirizzarlo, per esempio, c'è stata una certa preparazione, per esempio al matrimonio, mi è interessato moltissimo queste case per i catecumeni, forse si alludeva per esempio alle elezioni in Paraguay, non so chi è, ma per il matrimonio c'è stato un tentativo di preparazione a matrimonio, a veramente mettere al centro più la Chiesa che l'ambito familiare. E poi se c'è stata una verifica sulla vita matrimoniale, come? Ecco, se ci sono studi su questo genere. L'altra cosa è una curiosità personale, è a tempo medio, come direbbe Brodeo, tra XVI e XVIII secolo, c'è stata, o è possibile fare una verifica se c'è stato un cambiamento, soprattutto io penso alle masse meridionali, al mio meridione, dico quindi dei contadini, dei nonni intellettuali, cioè un passaggio a quello che è stato chiamato tempo ciclico, tempo lineare. È possibile verificarlo? Grazie. Grazie. Mi sembra che adesso i relatori devono rispondere, poi sono due altre domande. Io ho sentito che alle 12:30 al massimo dobbiamo dare la parola al professor Giuseppe Scabiozzo per una comunicazione, scusi. Ma prima lei. Herzog, dann sollten wir dann aber beide, beide Wortmeldungen jetzt noch. Ja, also Herr Ganzer. Permetto, collega, che fino agli anni di Trento registrano per esempio la confessione con scadenza regolare ogni anno, c'è un diario veneziano molto bello del 1500 dove si osserva dove, come e quando è stata fatta la confessione annuale, ci proiettano l'immagine di una devozione ritmata, regolare, in cui l'andamento ciclico delle stagioni e della vita si proietta senza difficoltà nella pratica religiosa. Dopo Trento e con Trento questo non è più possibile, la concezione tridentina non cioè, innova certamente rispetto a questo orizzonte, che poi venga utilizzata nell'immediato per funzioni di lotta religiosa con questi regimenti e con questo scambio per esempio tra confessione e inquisizione appartiene diciamo, alle complicazioni dell'epoca, ma l'ottica appunto era l'innovazione e la percezione che si ha nei sinodi siciliani. Per quanto riguarda le osservazioni dell'amico Marc Renard, sono molto, molto giuste. Il discorso certamente avrebbe dovuto cogliere anche quelli che non entrano nella vita e sono assolutamente d'accordo su quello che per quello che riguarda la confermazione e per quello che riguarda l'estrema unzione. L'esperienza seleziona la proposta tridentina e non casualmente marginalizza sacramento della presenza dei vescovi, perché diciamo, il modello tridentino è un modello fortemente episcopale, la percezione sociale sarà poi legata al mandamento delle cose che sappiamo appunto non obbedì a quella immagine, a quel modello. E anche la lettura popolare del matrimonio, sono assolutamente d'accordo, il sacramento del prete. Per quanto riguarda invece la questione della resistenza, della differenza tra uomini e donne, questo è un capitolo di straordinaria importanza nella storia della confessione. Il sacramento della confessione è percepito nelle società mediterranee, mi si perdoni la genericità della definizione, è percepito come un sacramento femminile. Per esempio c'è ragione che laddove gli uomini debbono, possono, diciamo che gli uomini possono confessarsi, vengono richiamati a farlo e sono remitenti, le donne debbono confessarsi per una ragione fortemente cogente che è il loro onore. La donna che non si confessa è immediatamente percepita come peccatrice ed espulsa dalla comunità. Questa diciamo, radice femminile della confessione è uno degli elementi di lungo periodo che rimane straordinariamente forte nel tempo. Mentre per quanto riguarda presenza maschile, l'impatto della confessione sulla parte maschile della società, le cose sono molto più sfumate e andrebbero viste probabilmente in rapporto a ambienti urbani, ambienti di campagna, diciamo, studiando una griglia di lettura che ci permetta di cogliere comportamenti molto differenziati che normalmente però sono comportamenti estremamente più rilassati. Dei maschi è tutta un'altra cosa. E d'altra parte sappiamo anche bene che nella realizzazione della confessione tridentina il primo e fondamentale problema che rese la confessione una cosa certamente diversa da come l'avevano concepita i padri tridentini fu quello della confessione delle donne. È da qui che nasce la definizione del reato della sollicitazio ad adulpia e tutta l'enorme impalcatura della stessa costruzione del confessionale altro non è che la risposta ad un problema sociale a cui i padri tridentini non avevano pensato, anche se naturalmente negli elenchi degli abusi e dei problemi discussi a Trento questo problema affiora, è un vecchio problema anche Erasmo da Rotterdam ne aveva parlato delle difficoltà inerenti ad un rapporto tra un confessore uomo e una penitente donna. Ma dopo Trento questo aspetto diventa devastante anche per l'emergere degli aspetti diciamo, legati alla morale sessuale, come gli aspetti emergenti dal punto di vista della confessione personale. Molti altri temi sono stati segnalati, ho preso nota che